fare il poveraccio. Tieni della pure la vita da spaccio. Loro sanno che non sto mai a letto, come se avessi una S tatuata sul petto. Non ho più bisogno di fare il poveraccio. Tieni della pure la vita da spaccio. Loro sanno che non sto mai a letto, come se avessi una S tatuata sul petto. Inizia a vendere erba per gelosia. Sei fuori strada, non è la tua corsia. Hai provato di tutto ma non hai fantasia. Non hai prove su questa è poesia. Dici di essere un duro, hai preso a botte il muro. La morte io figuro, se non mi credi lo giuro. Sono pronto a lottare finché il sole continua a bruciare. Se muoio oggi sono felice, ferisco anche senza radice. Ho l'abitudine di fare soldi alla faccia dei bastardi. Sogno a occhi aperti finché posso rovinarti. Hai portato sabbia alla pioggia, sembri un frocio con la frangia. Continua a pregare, tu hai supremi, perché con me hai grossi problemi. Se ti metti contro di me, pensaci bene, anche se l'ultima cosa che farai è la prima che fallirai. Non riesco a non dormire, tra un po' mi sento svenire. L'effetto sta per salire, finalmente lo posso dire. Non ho più bisogno di fare il poveraccio. Tieni della pure la vita da spaccio. Loro sanno che non sto mai a letto, come se avessi una S tatuata sul petto. Non ho più bisogno di fare il poveraccio. Tieni della pure la vita da spaccio. Loro sanno che non sto mai a letto, come se avessi una S tatuata sul petto. Cerco di non dire niente, metto a tappeto un cliente, come se fosse uno sport. A questo ci penso, l'ex corno, stai prendendo troppo da me. Io non ho preso niente da te, cosa pensi quando io parlo? A te interessa solo il colpo. Ti farò diventare pazzo, non t'abbasserò il prezzo. Sono cresciuto con dei tipi, non eravamo amici per principi. Carichiamo questo diesel, cresciuto con i film di Vin Diesel. In modo che tua madre codardo scelga per te la bara bastardo. Sogni di girare con una Mustang, ti meriti un colpo in testa bang. Come una pietra che rotola, ti investirò su stacchi la strada. Questa è la storia, sei attaccato come una caria, per spazzarti via un colpo d'aria. Vedi come una furia, troverai modo per vederti. Pensi che non riuscirò a prenderti, riderò su una sedia a rotelle, con un bastone o con le stampelle. Non ho più bisogno di fare il poveraccio. Tieni della pure la vita da spaccio. Loro sanno che non sto mai a letto, come se avessi una S tatuata sul petto. Non ho più bisogno di fare il poveraccio. Tieni della pure la vita da spaccio. Loro sanno che non sto mai a letto, come se avessi una S tatuata sul petto.